Suzanne sembrava preoccupata, unica cosa irrequieta nel suo delizioso appartamento. Si agitava sulla sedia, torcendosi nervosamente le mani. Che ti succede, Suzanne? Ma Cher è il mio amico, vuole sposarmi, dichiarò divertita e costernata al tempo stesso. Ma allora va tutto bene, Suzanne? Per niente! È una seccatura e persino la sua digestione ne risente. Credo che sia il fegato. Oh, tutto andrà a posto col tempo, vedrai. Non lo credo affatto. Non conosci le donne, Soyen. Puntano sempre i piedi quando la loro proprietà è in pericolo. Spero che sua moglie non scopra che ho del sangue cinese. Renderebbe le cose ancora più difficili per lui. Sei sciocca, Suzanne. No. Non lo sono, sei tu che non capisci, Suyen. Dovrai lottare contro i pregiudizi. Tu non te ne preoccupi perché il tuo aspetto è cinese e vuoi essere cinese, ma io passo per bianca. Se lei venisse a saperlo, si troverebbe in mano un'arma pericolosa, capisci? No, non capisco, no. Sei sciocca, sei in arretrato di 20 anni. Ovunque in Asia ho conosciuto medici, professori, scrittori che si dichiaravano orgogliosi di avere sangue cinese nelle vene. Valiamo quanto gli altri, se non di più. Perché vuoi misurarti col falso metro dei bianchi? Questo è il nostro mondo, Suzanne. Non a Hong Kong, Suyen, e nemmeno a Singapore. Anche a Hong Kong, anche a Hong Kong. La colpa è nostra. Siamo noi ad avvilirci, a sciupare il tempo nei risentimenti, ad alimentare un senso di inferiorità. E facciamo una scusa per i nostri insuccessi. Sono eurasiatica, ecco perché non posso riuscire, diciamo. Facciamo di noi stessi le vestigia dei tempi antichi della dominazione bianca, scimmiottiamo la peggior plebaglia bianca e le sue cattive maniere. È colpa nostra, Suzanne. Hai la parola facile, vero? Fece Suzanne. Ma io vivo in questo mondo e non nelle stelle. So quello che gli eurasiatici devono sopportare, lo sai anche tu, sebbene tu vada in giro col naso per aria e ti illuda di essere migliore di tutti gli altri. Io sembro bianca e finora me la sono cavata. Mi ha reso la vita più facile, salari più alti, appartamento gratuito. Non godrei di tutti questi privilegi se fossi soltanto eurasiatica o cinese, e lo sai benissimo, Soyen. L'essere eurasiatici non significa avere sangue orientale e occidentale nelle vene, dissi con l'arroganza e l'orgoglio di tutta la Cina nella voce. È uno stato mentale creato dai valori falsi, dal pregiudizio, dall'ignoranza e dai mali del colonialismo. Dobbiamo liberarcene, dobbiamo dimostrare una completa sicurezza in noi stessi e dire guardateci, noi eurasiatici siamo belli, avendo preso il meglio di entrambe le razze, siamo più intelligenti, più robusti, siamo il punto d'incontro di due culture, la fusione di tutto ciò che la civiltà mondiale può produrre. Guardateci e invidiateci, voi poveretti, ristretti alle limitazioni di un solo mondo, noi siamo l'avvenire del mondo, guardateci. Cielo! Esclamò Suzanne. Come parli, Suyen? Ma è vero quello che dici? È vero! E sarà vero se lo vorremmo veramente. Potremmo salvare il mondo, Suzanne, se soltanto non avessimo paura, se ci accettassimo per quello che siamo, costringendo gli altri ad accettarci. Suzanne non rispose e parlammo d'altro. William Monk e forse Marta. Posso offrirvi un passaggio? Mi chiese William Monk. Uscivo dalla scuola di May e non desideravo affatto un passaggio, ma già William Monk era sceso di macchina e mi apriva lo sportello. Ecco, siete comoda? Chiese allegramente. Avviò il motore. Mister Monk, io sono diretta all'ospedale. Non c'è premura. È una bella sera, un po' d'aria fresca vi farà bene. Facciamo un giretto. All'ospedale c'è aria fresca in quantità e in posizione molto salubre. Zitta, zitta, figliola, disse Monk maliziosamente. Quello che rende tanto attraenti le donne cinesi è appunto questo misto di riservatezza e di seduzione. Ah, le cinesi, continuò con grande lirismo, sono le più belle donne del mondo, figurette snelle, deliziose, mani e piedi minuscoli e carnagioni superlative. Non c'è da stupirsi che le altre donne perdano ogni attrattiva dopo che si è avuto una volta una cinese. Le nostre donne non reggono al vostro confronto. Mister Monk, lo interruppi, io sono euroasiatica. Davvero? Non l'avrei mai pensato. Beh, questo vi rende ancora più interessante, no? Le euroasiatiche sono più. Appassionate! E qui prese a ridacchiare in modo irritante. Non vi manca proprio nulla per far perdere la testa agli uomini. Un viso misterioso, un profilo. Mister Monk, dov'è vostra moglie? È a Macao per una settimana. Come dicevo, Mister Monk, badate al traffico. D'un tratto, allungò rapidamente la mano e mi strinse il fianco con contenuta passione. Mi fece male. Siete bella, lo sapete? Attento! Esclamai bruscamente. Sciocco che non siete altro, per poco la prendevate sotto. Avevamo sfiorato una delle innumerevoli peripatetiche di Hong Kong. William Monk era un pessimo guidatore. Portava avanti la macchina a rapidi sbalzi e poi d'un tratto andava piano come una lumaca. Fortunatamente l'interruzione lo mise di cattivo umore. Giungemmo sani e salvi all'ospedale, senza aver parlato d'altro che di golf, di nuoto e delle corse di cavalli del sabato. Per tutto il tragitto riuscii a tenerlo su questi argomenti. Diana Kilton. Diana è infermiera. Quaggiù le infermiere sposano spesso poliziotti, mi aveva detto una volta James Manton. Mi fa piacere che la polizia tenga tanti bei giovani a disposizione di queste brave ragazze. Entrando nell'ufficio di Diana la trovai con una lettera in mano. Come sta? Alfred, chiesi. Diana aggrottò la fronte. Quando imparerai a essere più discreta? Qualcuno potrebbe sentirti, disse guardandosi intorno preoccupata. Scusami, Diana. Ci eravamo conosciute in Inghilterra molti anni prima e sempre ella mi aveva attratto con i suoi bellissimi occhi nordici, grigio-verdi come il freddo mare del nord, e con la sua brutale, splendida franchezza. Ci sono cose che non potrai mai capire. Dovessi vivere fino a 100 anni, sei così presa di Mark che non sai quello che avviene intorno a te. Oh, ma io so tutto. So quello che si dice di tutti e anche di me, ma mi diverte. Beh. A me non va che la gente ficchi il naso nei miei affari privati. Non voglio rovinarmi ogni possibilità di trovare qualcosa di meglio, se mi riesce. Credevo che tu fossi innamorata. Certo, lui è innamorato, balla bene e ha anche la macchina. Un AMG. A casa non potrebbe permettersela. E a me piace. Oh, Diana, come ti voglio bene. Sei così ragionevole. Io non metto tutte le mie uova nello stesso paniere come fai tu. E il tuo è un paniere piuttosto malconcio. Ancora niente, lettere? No, ma mi aveva detto che non avrebbe scritto. È terribile. I suoi occhi erano chiari e crudeli. Beh, che altro potresti aspettarti? È andato a casa, no? Oh, non è così, Diana. Mia cara, sii ragionevole. Se ti illudi che il tuo bel collegiale ti rimarrà fedele. Dopotutto si trova in una situazione difficile, il fatto che tu sia cinese non semplifica certo le cose. Quella notte singhiozzai così forte da svegliarmi. Ailing Cheng, parli troppo, disse Liu Siko in tono di biasimo, parli veramente troppo, i cinesi a Hong Kong tengono la bocca chiusa. Stavamo all'entrata del King's Theatre, in attesa di Mrs. Cheng e di Ailin. Automobili e taxi riversavano continuamente folti gruppi di adulti e di bambini. Eccole, disse Liu, si sono venute in taxi. Avvolte in lucenti impermeabili di plastica, Mrs. Cheng e Aileen, la prima scoppiettante di esclamazioni, la seconda ostentante un'espressione da Mona Lisa sotto la pioggia, corsero verso di noi sul marciapiede bagnato e tutte insieme salimmo alla prima balconata. Come dicevo, riprese Liu Si, comodamente installata al suo posto, devi essere più prudente. All'ostello religioso i missionari ti chiamano il dottore rosso. Quando si è cinesi non è prudente parlare tanto a Hong Kong, perderai il tuo posto. Ah, oh, fra una settimana lo perderò comunque. Dici delle sciocchezze, Liu Si. Troppo spesso mi ero imbattuta in quell'atteggiamento pusillanime nei cinesi di Hong Kong. Non ci è concesso di parlare, dicevano, quasi esultando della loro mancanza di libertà. Ascoltami, dissi a Liu Si, tu non capisci gli inglesi. Essi amano il coraggio e sono quasi sempre giusti, benché in colonia non lo siano forse quanto a casa loro. Gli inglesi credono veramente nella libertà. La colpa è nostra, Liu Si, perché non osiamo parlare apertamente. Se ci facessimo sentire e dicessimo quello che pensiamo, se li aiutassimo nelle loro lodevoli iniziative e criticassimo senza paura i loro errori, se chiedessimo il diritto di voto, otterremmo quello che vogliamo. Lentamente e faticosamente, ma lo otterremmo. Il guaio è che a noi piace essere spaventati. Ci piace considerarci sempre vittime e invece lo siamo soltanto raramente. Lucy non parve affatto convinta. Tu stai parlando degli inglesi in Inghilterra. Tutti sanno che a casa loro sono i migliori. Ci potrà essere la libertà in Inghilterra, ma qui siamo in una colonia. Qui non siamo uguali. Siamo cinesi. Ci sono due misure per ogni cosa: case, salari, privilegi e libertà. Quella dei bianchi e l'altra. E anche colpa nostra, insistetti. Siamo pigri e lasciamo che i bianchi ci governino. Stiamo seduti senza far nulla e critichiamo. Io continuerò a dire quello che penso e non mi accadrà nulla. Solo gli stupidi e gli inetti continueranno a criticarmi, ma quelli che contano mi capiranno, vedrai. Dopo il film, nel taxi che correva sotto la pioggia, per lasciarmi all'ospedale e riportare poi i Cheng a Repulse Bay, Mrs. Cheng mi confidò le sue preoccupazioni. Naturalmente sono contenta che Eileen vada negli Stati Uniti, disse. Ha un temperamento artistico e deve imparare a esprimere se stessa, ma sono anche un po' preoccupata. Potrebbe innamorarsi di uno straniero e sposarlo. Sarebbe un disonore per la nostra famiglia. Oh no, la tranquillizzai. Non in questi tempi moderni, Mrs. Cheng. Non sarà certo un disonore se sposerà una brava persona di buona cultura. Mrs. Cheng emise un lungo sospiro e senza alcun riguardo per Eileen che sedeva di fronte a noi continuò. Naturalmente Eileen è ora una donna divorziata, il che rende difficile un suo eventuale matrimonio con un cinese di buona famiglia. Dopotutto dovremmo forse accontentarci di uno straniero. Ma suo padre ed io siamo ancora all'antica e considereremo sempre un suo matrimonio con uno straniero come un piccolo disonore alla famiglia. Così dunque stavano le cose da entrambe le parti. Come gli inglesi, la mia gente erigeva barriere inutili e sciocche. C'era bisogno di qualcosa che spazzasse via quegli idioti pregiudizi, affinché gli esseri umani imparassero a considerarsi come tali e ad aiutarsi vicendevolmente per il bene comune. C'era bisogno di fare qualcosa e forse la nuova Cina era sulla giusta via. Sarei andata a sincerarmene. Maya Wong. Maya! Non vedevo Maya da più di 6 settimane. Novembre, il mese soleggiato, il più bello di Hong Kong, era stato tutto per Mark. Avevamo avuto 4 domeniche, un intero autunno, 4 giorni d'amore e di sole da bastarci per tutta la vita. Maya! Sempre era stata sottile, ma ora appariva addirittura emaciata. Le guance arrossate, la pelle tesa sugli zigomi, gli occhi luminosi, le rosse labbra un po' avvizzite e aride. Sopra all'alto colletto cinese la vita pulsava con un battito tumultuoso e irregolare. Riconobbi immediatamente la malattia di Maya, ma ancora una volta la vista della sua bellezza riuscì per un attimo a farmi dimenticare l'orrore del suo destino. Mi guardava, le mani allacciate, con una espressione di pietoso terrore ed un tratto sopraffatta dalla sicurezza della sua morte. Scoppiai in singhiozzi davanti a lei. Maya continuava a guardarmi con un lieve sorriso sulle labbra aride, un sorriso pietoso e ironico al tempo stesso. Quando stese le mani per consolare la mia amarezza, le sue palme erano umide. Da quanto tempo lo sai, Maya? Ho sputato sangue 2 settimane fa. Avrei dovuto immaginarlo, quei continui raffreddori. Certo, avrei dovuto accorgermene. Se i miei occhi e il mio cuore non fossero stati completamente presi dall'avida passione per uno solo, me ne sarei accorta. Per un attimo odiai Mark e quella totale dedizione che mi aveva distolto da ogni altra cosa. Non mi ero accorta che la mia più cara amica moriva accanto a me. Più che cieca a causa di Mark. Cieca 2 mesi prima, quando Maya ed io avevamo parlato di Mark, distese sull'erba, ed ella mi era parsa tanto sottile, con gli occhi cerchiati di nero sotto al sole. Non avevo visto, perché non vedevo che Mark, cieca, sciocca e cieca. Mio marito è morto di tubercolosi, disse Maya. È il destino, non piangere, amica mia. Frenetica e sprezzante del mio stesso zelo, mi misi in moto. Maya non lavorava per il governo e non godeva quindi di alcun diritto di precedenza per un letto all'ospedale. Ai pochissimi sanatori c'erano liste di gente che aspettava da anni per essere ammessa. 200 nuovi casi di tubercolosi su una popolazione di 2 milioni venivano denunciati ogni settimana e le morti si aggiravano sulla settantina. Maya aveva 3 bambini. Se non lavoro morirò di fame e anche i bambini non avranno abbastanza da mangiare, diceva sorridendo, quasi stupita di essere giunta a tanto. Per 6 intere settimane mi ero lasciata scorrere il tempo tra le dita, ora per ora, e ormai Maya era febbricitante e colpita a entrambi i polmoni. Impotente, giravo senza posa in un circolo chiuso, cercando aiuto, spinta da un'arida amarezza. Mark riempiva ancora la mia vita e il suo pensiero mi dava una pena così dolce che nulla rimaneva per gli altri se non amarezza e rimorso. Nora e Robert Hung si offrirono di prendere i bambini. Già si erano presi mia figlia May, che era molto più felice con loro che non nella mia camera all'ospedale. Siamo tutti un'unica famiglia, Nora e Robert dissero a Maya. Poiché siamo tutti cinesi, i vostri 3 bambini, i nostri 4 e la piccola di Suyen, tutti insieme in una sola famiglia, ci fa tanto piacere. E sembravano davvero felici. Ma Nora e Robert dovevano pensare ai loro numerosi parenti, agli amici e agli amici degli amici che la Cina spingeva fuori, riluttanti, in un lento ma continuo fluire, e che arrivavano a Hong Kong confusi e sconcertati. Non c'è nulla da fare, abbiamo provato a rimanere, ma non abbiamo potuto resistere. E bisognava dar loro da mangiare, aiutarli a trovare lavoro e a ottenere un passaporto, talvolta anche legalmente. In seguito se ne sarebbero andati. Alle Filippine, in Australia, in Sud America, in Indonesia, a New York, a San Francisco, passando di casa in casa da un amico all'altro. Così fu Ann Richards a pagare per Maya. Seduta alla sua macchina da scrivere, ella diceva al pubblico quello che il pubblico voleva sentire. Aveva successo. Spesso la sera, ridendo fino a farsi venire le lacrime agli occhi, mi leggeva ad alta voce quello che chiamava il suo giornalismo giallo, e il denaro serviva a pagare la costosa retta di un ospedale privato per Maya. Maya era stata fortunata. Credeva che io fossi riuscita a farcela e che l'ospedale fosse gratuito. Ann non volle mai farle sapere quello che faceva per lei. Voi cinesi siete ormai troppo sensibili ai dollari americani. Ed è logico, dato che tanto denaro è andato a finire in malo modo. No, è meglio che Maya non sappia. Adeline Palmer Jones. Per la seconda volta in vita sua, Adeline Palmer Jones piombò su di me. Improvvisamente compresi perché Mark non avesse simpatia per lei. Quelle labbra sottili e rigidamente autoritarie, quanto deve essere piccola e spietata la sua anima, incastrata in quelle vaste di ingannevolmente morbide masse di carne. Ho visto la vostra richiesta di ammissione alla nostra associazione, mi disse Adeline senza alcun preambolo. Ho pensato che la cosa non potesse interessarvi molto e così ho dato ordine di non tenerne conto. State per partire per Pechino, vero? Inghiottii saliva, ma era il mio orgoglio che inghiottivo. Ho deciso di rimanere ancora per qualche tempo a Hong Kong, Mrs. Palmer Jones. Davvero? I suoi occhietti mi scrutarono. Beh, comunque noi ci teniamo ad avere soltanto elementi sceltissimi nei nostri enti educativi. Gli altri possono sempre mettersi a servizio del governo. In alcuni circoli di Hong Kong era di moda considerare con disprezzo l'ambiente degli impiegati governativi. Ho saputo che Mr. Elliot ha lasciato Hong Kong, continuò Adeline in tono discorsivo. Peccato, l'avevo invitato a cena con Miss Kilton, ma non è venuto. Miss Kilton mi ha detto che era già partito. La cosa era incominciata da tempo. Una sera, a un ballo, i Monk erano venuti al nostro tavolo per invitare a cena Mark e Diana Kilton. Ignorandomi con ostentazione e cose del genere erano accadute altre volte. Quando non ero presente, si facevano uno scrupolo di farmi sapere che avevano invitato i miei amici, lasciandomi volutamente fuori. Era la mentalità di Hong Kong. Non c'era nulla che potessi rispondere ad Adeline. Ero tanto stanca. Abbassai lo sguardo, sentendomi inferiore e colpevole. Mark era lontano, ritornato al suo mondo, a quella realtà che era pur parte di lui. Un giorno avrebbe capito l'impossibilità del nostro sogno. Un giorno avrebbe scritto, ammettendo con rimpianto che tutto non era stato che un sogno. In quei momenti, di fronte ad Adeline, dominata dal suo sguardo, accettando tacitamente la sua disapprovazione, mi resi conto dell'impossibilità dei nostri progetti, perché Adeline era la realtà, e la realtà vince sempre. Ernest Watts. La siepe di ibisco ondeggiava i suoi fiori a spirale. Il loro rosa carico sulle foglie di un verde brillante incorniciava il lembo del mare di seta che appariva attraverso una breccia della siepe. Sedevo nel sole, rivolta verso il mare, cullando il mio eterno dolore. Sedevo a terra e lasciavo che il sole cullasse il dolore che era in me, fino ad addormentarlo, come fa una madre col suo bambino. L'ibisco rosa cupo allungava le sue spire lungo il sentiero assolato verso la casa della saggezza. Sul sentiero apparvero improvvisamente Ernest Watts e John Tam, quest'ultimo entusiasta ed eccitato dalla discussione. Mi alzai, pesante, piena del vuoto del silenzio di Mark. Ernest Watts scoccò la sua freccia, a 20 centimetri da me. Certo che avrei udito ogni sua parola, dandomi il suo profilo da vedere, disse chiaramente e lentamente a John Tam: «Non dimenticate la nostra cena stasera. Verrà anche Archie Cuff. Vi piacerà. È un grande amico di Mark Elliot e potrà anche darci notizie di lui, poiché l'ha visto a Bangkok solo 2 giorni fa». Sen. Fu così che, confusa dal dolore, in continua lotta con me stessa, perseguitata dal pensiero di Mark, andai da Sen. Sen, la prossima volta che andrete in Cina verrò con voi. Parto fra una settimana, disse Sen. Portate anche la bambina? Venite per rimanervi? No, ho promesso a Mark Elliot che avrei atteso il suo ritorno o una sua lettera a Hong Kong. Siete l'eterna dilettante, Han. Quando vi deciderete a dedicarvi interamente alla più grande causa del mondo? Devo ritornare. Oltre a quello del dovere ci sono altri interrogativi che devo risolvere. Tanti sforzi e tanta sofferenza per un inglese, Han. Ne vale davvero la pena? Non vi sembra di sciupare la vostra bella energia? Può darsi che sia una brava persona, Han, ma politicamente. Non so, non so più nulla, non so più distinguere quello che è importante da quello che non lo è. Devo essere ben sicura di non fargli del male, Sen. Non voglio distruggerlo. Comprendetemi, Sen. Sono innamorata e sono una donna. Non capisco bene il dovere, come voi. Il dovere, disse Sen, è assoluto. Fine della seconda parte.